Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Chi è senza macchia scagli la prima pietra, ma chi ha qualche macchia e soprattutto qualche neo chiami il nostro numero verde 800 24 0024. Buongiorno a voi da Nicoletta Carbone, buongiorno alla dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica, che è qui in studio con me. Buongiorno. Buongiorno a Nicoletta e buongiorno a tutti. Dottoressa Serri, chi non ne ha? I neo li conosciamo tutte, sono macchie o rilievi della pelle molto comuni, possono essere presenti dalla nascita o comparire in seguito, poi possono variare per forma, colore, modificarsi nel tempo, scomparire, infiammarsi, insomma ne fanno di tutti i colori, ma non tutti i nei sono benigni, meglio tenerli d'occhio, controllarli, è questo che vogliamo ricordare ai nostri amici a casa. La pelle ha il grandissimo vantaggio che è a vista, per cui controllare la pelle è la cosa più semplice del mondo, basta guardarsi e imparare a guardarsi. Certamente tutti noi abbiamo almeno una cinquantina di nei, da piccoli a più grandi, per cui minimo una cinquantina di nei li abbiamo. Ovviamente se calcoliamo tutti quanti, la percentuale collettiva dei nei pericolosi è molto, ma molto bassa. Per cui si dice di controllarsi non per allarmare le persone, ma semplicemente per sfruttare la possibilità che la pelle dà di fare una prevenzione immediata. Allora, autoispezionatevi con attenzione, l'ideale sarebbe mettersi nudi come bruchi davanti allo specchio, osservarsi attentamente senza tralasciare nulla. Se, come immagino, non potete farlo ora, fatelo magari questa sera tornando a casa e applicate la regola dell'alfabeto. Molti di voi la conoscono, ma noi la ripassiamo insieme. A come asimmetria. Se ipotizziamo di dividere il neo a metà con una linea verticale, dobbiamo verificare se le due parti sono uguali, simmetriche, oppure diverse tra loro, asimmetriche. Se la macchia è asimmetrica, deve destare preoccupazione. B come bordi. I bordi di un neo non pericoloso sono regolari, mentre se sono irregolari e frastagliati è sospetto. C come colore. Se il colore si modifica nel tempo o vi sono più colori contemporaneamente, si deve accendere una spia di allarme. D come dimensioni. I nei hanno dimensioni modeste, in media un diametro di 2-3 mm. Meglio approfondire quindi se la macchia è piuttosto grande, con un diametro oltre i 6 mm. E come evoluzione. Se la macchia si modifica velocemente, cambiando aspetto, quindi forma, colore o dimensioni, oppure se iniziasse a diventare pruriginosa, è bene allertarsi e rivolgersi al dermatologo. 800 24 0024 se volete intervenire, o potete scriverci al 349 238 6666 e vi ricordo come sempre il nostro profilo Facebook. Dottoressa Serri, voi dermatologi li guardate giustamente con attenzione, con sospetto direi, ma ci sono stati tempi in cui i nei, più che un rischio per la nostra pelle, erano un'arma di seduzione. Le nobildonne nel Settecento si mettevano dei nei di seta sul viso e lo facevano forse a ragion veduta, perché sapevano che il neo messo in una particolare zona del viso aggiungeva fascino, insomma dava qualcosa in più. Dottoressa Serri. Ecco, una cosa importante, certamente seduttivi e ce n'è di simpatici, come ci spiegherà poi Elisa, ma quello che voglio sottolineare è che una volta si diceva anche non togliere i nei perché sono pericolosi, luogo comune assoluto di cui parleremo. La realtà è che se li televano e li toglievano troppo tardi. Chiusa parentesi la dottoressa Serri l'ha già anticipato, abbiamo in linea con noi Elisa Calcinari. Ciao Elisa, benvenuta. Buongiorno, ciao. Truccatrice per lo spettacolo, cinema, televisione e teatro, ha lavorato per il reparto di trucco e parruccheria all'Arena di Verona e al Teatro Filarmonico, quindi una grande esperta di trucco e parrucco, come si dice. Sì, Elisa. Anche di nei, perché il Settecento nell'opera lirica viene utilizzato spesso, no? Sì. E le nobildonne, quando si mettevano un neo posticcio, non lo mettevano a caso, perché i grandi bottè mandavano dei messaggi, è vero? Sì, è vero. Beh, innanzitutto è una pratica che si è sviluppata nel Settecento, ma sembra proprio per occultare un pochino le cicatrici del vaiolo. Mm. Per cui loro lo utilizzavano in maniera posticcia, lo facevano di stoffa, di taftà o di pelle morbida, e proprio li incollavano, erano in varie forme, a stella, luna, sole, addirittura c'erano alcuni che mettevano dei nei fatti di carta a forma di carrozza con i cavalli, per cui proprio una cosa molto particolare. Però utilizzata anche per dare un certo significato, per esempio un neo a lato della bocca sinistra voleva significare che la donna era una donna baciatrice. Pensa, proprio come ce l'ha sul neo sulla bocca sinistra proprio Laura Vanossi, quindi abbiamo scoperto un segreto in redazione a Essere Benessere, c'è una baciatrice, l'abbiamo scoperto. Oh, perfetto. Oppure per esempio sul labbro superiore destro era una capricciosa. Ah, hai capito. E senti, e invece sotto l'angolo dell'occhio c'era, ne ho visto un po' di immagini. Era sotto un posto... l'angolo dell'occhio era una diciamo un carattere così. Abbastanza io di solito lo utilizzo per i cicisbei, sì, perché era un carattere abbastanza così, come si può dire, affrontato, sì, no, così, e quindi lo utilizzo per i cicisbei, per il cicisbeo che era un gentiluomo del Settecento e viene rappresentato di solito nelle Nozze di Figaro di Mozart oppure negli Italiani in Algeri di Giacomo Rossini. Senti, utilizziamo questo modo. Però non occorre andare tanto indietro nel tempo, perché basta pensare a Marilyn Monroe, a Cindy Crawford. Oltre al neo c'era dell'altro sicuramente, ma come si dice, Elisa tutto fa, no? Cindy Crawford con il suo neo, insomma, ha fatto storia. Esatto, ha fatto storia, ma per esempio io ho visto anche che sulla guancia destra i nei hanno un significato di successo e felicità duraturi, e Mina per esempio ne ha tre sulla guancia destra, penso che proprio lei abbia raggiunto un grande successo, no? Sto guardando la dottoressa Serri e poi so, mi conosco, noi non abbiamo nessun neo sulla faccia, possiamo metterceli magari, proviamo, ci facciamo un... Tu hai lavorato per tanti anni all'Arena di Verona, hai truccato personaggi famosi, e ti è mai capitato di consigliare a qualcuno magari di evidenziare un neo, di usarne uno posticcio per dare carattere al volto, o al contrario hai dovuto mascherarli, cancellarli, nel senso coprirli? Ma il neo è estremamente identificativo per un viso, per cui qualche volta quando si lavora per le caratterizzazioni bisogna o metterli o toglierli, perché proprio, non so, per esempio Madonna ha usato un neo quando imitava un po' la Marilyn Monroe, soprattutto in un'immagine di una copertina di un disco in cui si riferiva a quel famoso ritratto di Andy Warhol della Marilyn, per cui lei ha usato un neo per identificare il personaggio, no? E per cui è identificativo, e alcune volte ci dobbiamo utilizzarli, alcune volte no. Però nella realtà della vita io non sarei per nasconderli, sì, anzi per me sarei proprio per evidenziarli, nel senso che io ci metterei proprio anche dei brillantini sopra. Proprio per evidenziarle. Poi ci sono dei nei sul décolleté delle donne che, insomma, messi nel punto giusto. Invece i dermatologi, a proposito di décolleté, raccomandano alle donne quando si ispezionano di controllare anche bene. Beh, i controllare nei tutto, sotto il però seno. Controllare anche. Ieri ero in autobus, io ho questo vizio, questa deformazione professionale di osservare le persone, sembro, sì, una guardona. In realtà. E vedevo questo signore che aveva un grosso neo sulla guancia sinistra, grosso grosso, era certamente un neo congenito, cioè presente al momento della nascita, grosso nel senso che aveva almeno un centimetro e mezzo di diametro, sì, cioè era di forma ovale, e tra me e me pensavo, Ma perché non se lo fa togliere? Certo. Perché i nei congeniti sono oggettivamente nei più a rischio di altri. Allora, noi salutiamo Elisa Calcinari. Grazie Elisa per essere stata con noi. Ti auguriamo buona giornata. Grazie mille anche a voi. Poi se decidiamo di metterci un neo posticcio, ti facciamo una chiamata e così tu ci dici esattamente dove metterlo per lanciare il messaggio giusto. Grazie, buon d'accordo, lavoro. D'accordo, grazie. Belli a voi, però. Arrivederci. Buongiorno. Grazie. Belli però i brillantini sui nei, ci piace. Sì. E a voi piacciono i vostri nei? 800 24 00 24. Ci sono dei posti, dei luoghi, dottoressa Serri, in cui il neo, proprio per essere lì, in quel parte del corpo, è più sospetto? Perché su internet si legge, ad esempio, le donne devono fare attenzione ai nei sulla parte della gamba, sulle gambe piuttosto che sulle braccia, perché lì potrebbero esserci dei rischi ulteriori. Ma sì, è vero? È la posizione che fa il neo pericoloso o un neo pericoloso, indipendentemente? No, il neo è numero uno, è pericoloso o non pericoloso indipendentemente. Una volta si diceva che i nei in posizioni di possibile traumatismo andavano tolti. Oggi noi sappiamo che il traumatismo cronico in realtà non fa assolutamente nulla. Quelli che sicuramente vanno guardati con più attenzione sono quelli acroposti, cioè posti alle estremità, orecchie, naso, mani, piedi. Però vanno guardati con più attenzione, ma non con terrore. Ecco, io cerco sempre di informare senza terrorizzare, e internet da questo punto di vista devo dire che sta diventando un po' genera molta molta ipocondria. Andiamo nella provincia di Trento, ci aspetta Stefania, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Io volevo chiedere appunto un'informazione. Io ho un neo congenito dalla nascita che è sullo zigomo sinistro sotto l'occhio, che è leggermente in rilievo, insomma non è piatto. Ho fatto una visita tempo fa in cui mi è stato detto di stare tranquilla, appunto, che è sempre rimasto così, non si è modificato nel colore, nella forma. Però mi chiedevo, visto che è sempre anche sottoposto al contatto comunque con le mani, perché ci si trucca, se sia comunque opportuno toglierlo precauzionalmente o se invece posso stare tranquilla, insomma, ecco, questa è un po' la mia domanda. Se ci fosse qualcosa del mio aspetto fisico che desse fastidio a Carla, io sarei felicissimo di correggerla. Capisci? Probabilmente migliorerebbe il nostro rapporto. Odio il tuo neo. Cosa? Piccola, dicevi che era il tuo bottoncino, tu mi hai fatto tagliare i baffi. Era prima di vedere cosa c'era sotto. Ok, vengo al punto. Se lei dice a Carla che il neo non si può operare, io le do $10,000. Turk, non voglio che tu lo faccia. Non si può operare. Ritiro. La domanda di Stefania ci era perfettamente in linea con questo breve estratto da Scrubs che Laura Vanossi aveva selezionato per la puntata. Toglierlo o non toglierlo? Quali sono le condizioni e i criteri di scelta, dottoressa Serri? Beh, i criteri di scelta sono appunto quelli che il dermatologo studia. Abbiamo parlato prima di nei da guardare secondo la BCD, cioè asimmetrici, bordi irregolari, colori diversi all'interno dello stesso neo, diametro superiore ai 6 mm. Per quanto riguarda la nostra ascoltatrice in particolare, lei è di Trento e a Trento c'è un'ottima scuola proprio di dermatologi che studiano nei e melanomi. Per sapere se un neo è più o meno a rischio, il dermatologo lo osserva, perché poi è il dermatologo che fa la diagnosi, e se vuole fare un'osservazione più accurata lo guarda in dermoscopia, come vedremo. Se toglierlo o no è poi un quesito sia di pertinenza del dermatologo. Ci sono nei brutti per il dermatologo e quelli vanno tolti, e nei brutti esteticamente, sebbene non pericolosi, e quelli possono essere tolti per motivi meramente estetici. I nei regolari, piccolini, che non hanno nessuna caratteristica di rischio, possono essere tenuti, però è una cosa da discutere col dermatologo. Una notizia interessante che hanno detto adesso a New Orleans, sono stata al congresso dell'American Academy of Dermatology è che le donne sono delle ottime diagnoste, cioè la maggior parte dei melanomi non viene scoperta dal medico ma dalla donna. Grazie. Anche nel proprio marito. Noi cioè siamo troppo le donne forti. Sono attente, si osservano il partner, osservano il figlio e portano al medico il sospetto. Gli uomini non si osservano per niente o pochissimo. 800 24 00 24, osservate, quindi osservatevi anche voi uomini, ma io conto sull'intervento delle mie amiche, delle noi donne siamo veramente alleate preziose, certo, per, certo, perché per ci la osserviamo, salute degli perché abbiamo altri. Imparato, soprattutto abbiamo imparato a filtrare le notizie e a utilizzarle in senso positivo, cioè, certo. L'uomo invece tende o a sottovalutare o a buttare in crisi ipocondriaca massima. Ogni giorno gli tiriamo un po' le orecchie a questi poveri uomini, che poi sono carini, eh? Deliziosi. Non si potrebbe fare a meno. Basta che facciano però quello che diciamo noi. Esatto. Parliamo dei nei pelosi. Allora, una volta si diceva nevo peloso, mai rischioso. Ecco, sentiranno magari gli ascoltatori dire neo, nevo, come si dice? È uguale. Il dermatologo dice nevo. Sì. In genere però si parla di nei e sì. Neo. Ecco, il neo peloso, mai rischioso. Certamente se un neo è così differenziato, cioè ha le celluline ancora normali che producono il pelo, si dice non può essere così a rischio. Certo. È solo quello brutto. Che è maligno in genere è quello indifferenziato, il caos, l'anarchia totale, la cosa stramba. E in genere appunto i nei più rischiosi non sono pelosi, però insomma non sono regole universali, bisogna guardare bene il neo clinicamente, dermoscopicamente, magari istologicamente. Ma e i peli sul neo, scusi, ma così rispondiamo anche agli ascoltatori che mi stanno scrivendo. Posso eliminarli o no? Se si mi dà possono fastidio il ciuffetto di pelo e non il si neo. Si possono per tranquillissimamente togliere con la pinzetta, però non togliere con né col laser né con l'apparecchio di elettrodepilazione, elettrolisi. Oppure si può eliminare tutto il neo e via, e uno via, non ci pensa più. Allora voglio dare la parola a Nadia che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, anche agli ascoltatori. Siamo allora qua. Io non personalmente, ma in famiglia c'è stato un grosso problema riguardo un melanoma coroideale. Ha subito questo problema mio fratello e la cosa più tragica è che purtroppo ha dovuto subire l'enucleazione dell'occhio. Sì. Lui era andato anche da Zografos, la professoressa credo sappia benissimo chi sia, per cercare di schermare tramite bombardamento. Ed è stato necessario intervenire. E questo, Nadia? La famosa clip al tantalio, infatti, ma quando lo stesso Zografos gli ha detto che purtroppo aveva raggiunto un'entità tale che era ormai inutile rischiare, mio fratello è tornato a Roma e qui al Policlinico con il professor Cruciani ha subito questo intervento. Adesso la mia domanda è un problema genetico, congenito, possono essere rischio familiari, figli e quant'altro? Grazie Nadia. Dottoressa Serri, si parla sempre di familiarità, di genetica. C'è familiarità per tutto, ma vivere è pericoloso, nascere è pericoloso perché si corrono tanti rischi. Se fossi Nadia io starei più che tranquilla, non certamente sia vicino al fratello perché sta vivendo un momento difficile, ma stia tranquilla per se stessa e per la sua famiglia, perché certamente bisogna stare attenti, controllarsi. Però non si può vivere con la paura. Io stessa ho avuto un padre dermatologo, un grande dermatologo, studiava i tumori della pelle. Mio papà è morto di metastasi di melanoma a melanotico, per cui ha avuto evidentemente un melanoma che non è stato riconosciuto da lui stesso, dermatologo. Chiaramente il calzolaio ha sempre le scarpe rotte come tale e quindi non si è mai capito da dove fosse partito. Certo, oggi si sta attenti, si sta più attenti e io sono particolarmente attenta, ma non quindi, per questo sono terrorizzata. Chi ha casi in famiglia, chi ha casi in famiglia di melanomi, certamente senza vivere nell'ansia assolutamente della, ecco, perché assolutamente il controllo ci mette tutto quello che la possiamo fare. La pelle ha di fantastico la possibilità di controllo sereno e tranquillo. Certamente, come nel caso di Nadia, l'occhio è un po' problematico, certo, ma ai primi sintomi, non per terrore, ma proprio per prevenzione. Il bello della medicina preventiva è questo, che si possono fermare, prevenire le cose. Quando si hanno dei segnali un po' strani da qualsiasi parte, farsi vedere. Quindi l'invito è: osserva e nel caso riferisci al medico. Esatto. Noi non ci sostituiamo al medico, ma siamo a vostra disposizione. 800 24 00 24, Mercati Meteo e poi di nuovo insieme. Essere e benessere. Occhio al neo, o meglio ai nei. Voi continuate a chiamarci 800 24 00 24, osservate la forma, i bordi, il colore, l'evoluzione, questo è quello che ciascuno di noi, mi verrebbe da dire, può fare, ma voglio dire deve fare. In linea con noi abbiamo Giovanni da Milano. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Ecco, abbiamo detto che sono sempre le donne a guardare, a fare una diagnosi del neo sospetto, ma Giovanni evidentemente anche lei è attento, bravo. Sì, no, grazie al cielo io ho fatto anche già una visita preventiva perché l'azienda ce lo permette, dove lavoro io, che fanno già prevenzione in tanti campi, compreso anche quello del controllo dei nei, eccetera. Sì. La domanda però che volevo fare, che non esula un po' da questa questione della prevenzione... Sì, può alzare un po' la voce, Giovanni? Sì, no, la domanda che volevo fare esula dal discorso preventivo. Se una persona erroneamente rompe un neo, diciamo, perché si gratta, perché... Sì. Giovanni, questa persona è lei? Esatto. Perché si dice sempre l'amico, no? Ecco, va bene, l'abbiamo beccato. Allora, abbiamo già fatto due scoperte. Laura Vanossi è una baciona e Giovanni si è inavvertitamente tagliato un neo. Dottoressa Serri, lo sgridiamo, ci preoccupiamo? No, assolutamente, assolutamente, succede molto spesso e si lega sempre al luogo comune di un tempo che diceva non toccare i nei, non grattare i nei, è pericoloso toccare i nei. Capita, i nei sono spesso delle sporgenze della pelle, per cui magari prendono dentro, prendono la cerniera, sì, e in genere non succede assolutamente nulla. Se sanguinano, nulla. Cosa dobbiamo fare? Li disinfettiamo? Li mettiamo sopra una pomata antibiotica, se abbiamo dei dubbi andiamo a farlo vedere dal dermatologo, non si è fatto niente di tremendo, però se il neo sanguina per conto suo, sanguina troppo rispetto a quello che è il colpo o il traumatismo preso, sì, allora a quel punto si va dal medico. Perché il medico, il dermatologo non ci guarda solo ad occhio nudo, ma ha tutte delle apparecchiature. Certo. Noi ne abbiamo una qua di cui poi vi parleremo, perché la dottoressa Serri l'ha presa adesso al convegno che c'è stata a New Orleans in America e ce la racconterà, ma in linea con noi abbiamo la professoressa Katie Peris, che è ordinario e direttore della clinica dermatologica all'Università dell'Aquila. Professoressa, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ciao Katie. Quali Ciao. Sono le metodiche che avete a disposizione per riconoscere con certezza un neo benigno da uno maligno? La metodica che è più sicuramente più utilizzata dai dermatologi si chiama dermatoscopia, sì, ed è una tecnica non invasiva che sì, analizza sul paziente tutte le macchie della pelle e può essere effettuata a tutte le età, quindi anche a bambini se serve, a donne incinte, può essere ripetuta anche più volte nell'arco dell'anno, quindi è una tecnica molto sicura. Sì. Ma anche molto efficiente. E a proposito del signore che diceva del nervo che si era traumatizzato, a volte appunto si controlla proprio con la dermatoscopia che cosa succede a questi nei, che più delle volte cicatrizzano e non si trasformano mai, quindi anche in questi casi la dermatoscopia può aiutare. E in fondo è come una foto ad alta definizione, no? Dottoressa, professoressa Katie Peris. Non è proprio una foto e non è solo un ingrandimento, è una cosa più complessa, ma non fa male, non usa ultrasuoni e non usa raggi, per questo è non invasiva. La dottoressa Serri ha portato qua un apparecchietto che è arrivato dall'America, che è un dermatoscopio praticamente da passeggio. È il dermascope, Katie, quello che si unisce all'iPhone. L'hai preso? Sì. E allora adesso praticamente, se lei l'avesse avuto dietro, poteva fotografare il signore sul tram con il neo prendere insomma, visualizzare questo neo, e poi si può mandare e poi l'avrei mandato alla professoressa Chetti per farlo leggere bene al meglio e dire: ma com'è? Professoressa, quindi questo esame è un esame non invasivo, è un esame che può essere fatto quindi anche ai bambini, ma lei lo consiglia a tutti, solo ai soggetti a rischio, quindi a chi ha tanti nei o ha storie di melanoma in famiglia, a chi altro e ogni quanto? Allora, innanzitutto personalmente lo consiglio sicuramente a tutti i soggetti a rischio, quindi quelli che, come diceva lei, hanno tanti nei, hanno avuto un melanoma o hanno una familiarità per melanoma, ma anche a quelle persone che hanno un rischio che deriva proprio dal colore della pelle, degli occhi, quindi persone con pelle chiara, occhi chiari, o persone che sono esposte al sole per molti mesi all'anno o per motivi di lavoro o per attività ricreative. Questi sono i soggetti che sicuramente la devono fare. Quanto spesso poi dipende da quanti rischi hanno, e questo può variare tra una volta all'anno fino a una volta ogni 3 mesi nei soggetti che sono veramente ad alto rischio. Alessandro da Roma mi aspetta da un po'. Alessandro, l'ho fatta attendere, mi dispiace. 800 24 00 24, se volete attendere un po' anche voi, ma daremo risposta a tutti. Buongiorno Alessandro. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Lei è molto carino. Mi racconti? Ho piccolo neo sotto il quarto dito del piede destro, diciamo sotto la pianta, praticamente, però sul polpastrello, e volevo sapere se era preoccupante, visto che abbiamo detto che i nei periferici sono un po' più... Alessandro è stato molto attento, dottoressa Serri. Professoressa Chetti Peris, cosa suggerisce ad Alessandro? Dico che la sede non è un criterio per stabilire se il neo è a rischio, e posso dire con un po' di orgoglio che siamo stati noi italiani i primi in Europa a dimostrare che la localizzazione, quindi la sede sulla pianta dei piedi o sul palmo delle mani, non è un criterio per preoccupare il paziente o per togliere un melanoma. Quindi va osservato esattamente come gli altri nei in altre parti del corpo. Se è brutto si asporta, altrimenti si lascia. Maria ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno Maria. Buongiorno Nicoletta, complimenti e grazie. Grazie a lei Maria, ci racconti? Allora ascolti, mio figlio ha un neo sulla spalla destra. Sì. Però è grande. È grande il figlio o è grande il neo? O tutte e due? Tutte e due. E beh, tanto è un neo brutto a vedersi, Maria. Allora ascolti, è grande come una mano e è peloso, però lui adesso ha 25 anni e questi benedetti peli se li ha tolti. Sì. Il dermatologo ha detto: ma no, non è niente. E quindi, allora, se il dermatologo, dottoressa Serri, dice non è niente... Mi sembra di intendere che è un nevo di Becker, cioè non è tanto scuro, vero, è color caffè latte e è infastidito essenzialmente dai peli che si stanno scurendo. Ma è anche senza i peli è così, eh? No, chiedo scusa, è un neo molto scuro o color beige caffè latte? Sì, caffè latte. Ecco, è un nevo di Becker. Sì. Il nevo di Becker non è assolutamente un neo pericoloso, è un neo che tende a venire proprio sul tronco, soprattutto di ragazzi, inizia con una macchia chiara, poi si può allargare, diventa di grosse dimensioni. Se i peli danno fastidio si possono togliere. Si possono togliere i peli, ma si può togliere anche il neo, nevo? Il neo è troppo grande, francamente, per toglierlo, per cui siccome esteticamente non è mai il neo che dà fastidio, ma sono sempre i peli sopra, nella mia opinione si può fare, il ragazzo può anche poi fare una ceretta. Non portano, ecco, non le ragazze hanno meno problemi perché ricorrono più facilmente a strumenti semplici, ripeto, una ceretta, oppure si possono radere, non so. Però c'è da dire che le spalle è difficile che un uomo porti un abito da sera scollato, no? Sì, non però si vede. Gli uomini ci tengono molto. Noi dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma parleremo, la dottoressa Serri e la professoressa Chetti Ferris e sono stati proprio in questo convegno americano, dove è stato nuovamente lanciato un allarme sui rischi dell'abbronzatura artificiale, un allarme che era già stato lanciato nell'edizione dello scorso anno dell'Euromelanoma Day, ma ci sentiamo tra poco. Quindi se fate ricorso a lampade, delle lettine abbronzanti, e se siete giovani donne, per favore restate con noi, a tra poco. Essere e benessere. E siamo tornati insieme. Professoressa Chetti Peris, è ancora in linea con noi? Sì, sì, ecco, sono ancora qui. Voglio farvi ascoltare questo breve scheda che sottolinea un allarme, l'allarme che è stato nuovamente lanciato dai dermatologi. Andiamo. Un'indagine condotta negli Stati Uniti riporta un dato allarmante. L'utilizzo dei lettini solari è passato dall'1% della popolazione nel 1988 al 27% nel 2007. Questo dato, unito a una recente analisi fatta dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, IARC, e pubblicata sull'International Journal of Cancer, che ha valutato il rapporto tra lettini solari e rischio melanoma, suggerisce come l'uso delle lampade abbronzanti prima dei 35 anni aumenti del 75% il rischio di sviluppare il melanoma. Professoressa Chetti Peris, facciamo un commento a questo dato che è un po' inquietante, allarmante direi. Sì, è vero, quindi quello è un dato di fatto, ma il problema lettini solari è ancora molto sentito e sicuramente in questo senso ci sarà molto da fare nei prossimi anni, perché un risultato che è stato dato all'American Academy è che il melanoma sta aumentando di incidenza soprattutto nei giovani e in particolare nelle donne, e una forte associazione è stata osservata proprio con l'uso dei lettini solari. E purtroppo i giovani fanno ancora tanti e troppi lettini solari. Stiamo parlando dell'America, ma io credo che questo problema dovremo affrontarlo parallelamente anche noi in Europa, perché in realtà la consapevolezza da parte dei giovani è ancora poca. Molto bassa. Quindi essere abbronzati è bello, e quindi veramente è un problema attuale. Professoressa, ma quindi lei nei confronti dei lettini artificiali consiglia non fateli assolutamente, o c'è un numero di lettini in cui si può in qualche modo comunque salvare evitare il rischio? Non so, sì. 4 al mese, 4 in una stagione, sotto i 10, farli con delle creme protettive, c'è qualcosa da fare per chi volesse farli? Allora, c'è un numero consentito effettivamente, consentito anche dalla Società di Fotobiologia Europea, che è intorno alla dozzina all'anno. Se si vuole fare, è preferibile farlo senza protezione, senza crema di protezione, quindi ridurre i tempi, sì, ma non proteggersi. Sì, c'è un numero possibile oltre il quale non andare, ma qui parliamo ovviamente di un abuso di molto più, sì, certo, di numericamente. No, ma ci serviva un numero per orientarci. Dottoressa Serri, sole artificiale no, o al limite proprio con estrema moderazione, ma ci sono anche persone che sono potenzialmente a rischio, non solo perché fanno lettini, insomma, sono desiderosi di avere l'abbronzatura tutto l'anno, ma hanno anche proprio un colore della pelle, un tipo di pelle che è un pochino più a rischio di altri. Quali sono? Le pelli più a rischio sono quelle a fototipo basso, cioè al di là del colore di pelle e capelli, sono quelle che producono poca melanina sotto stimolo solare. In genere sono le pelli di chi è rosso di capelli, chiaro di occhi e ha tante felidi, quindi questa pigmentazione irregolare, e poi la pelle di chi comunque si arrossa sempre quando va al sole, produce poca melanina. La melanina è comunque un sistema di protezione, autoprotezione della pelle, per cui più è un melanina, la melanina buona c'è e meglio è. Sono contenta che la professoressa Peris abbia sottolineato la necessità, anche quando si fanno lampade, di non mettere filtri a protezione solare, perché comunque questi filtri assorbono in qualche modo e modificano i raggi solari, possono non essere stabili, per cui possono scatenare anche all'interno della pelle, quindi, delle reazioni ossidative, e è molto importante semmai mangiare alimenti ricchi di antiossidanti e assumere integratori, quelli che chiamano solari, che sono integratori radicalici, che quindi proteggono proprio in modo approfondito le cellule dal danno. Quindi la famosa vitamina D che molti dermatologi consigliano di assumere? No, la vitamina D è quella che è indispensabile, ecco, e che noi produciamo quando andiamo al sole, che è indispensabile al nostro organismo. Hanno dimostrato che chi non prende mai sole ha anche meno vitamina D, per cui è molto importante comunque anche per i bambini una quota di sole, che è un tot. E a proposito di bambini, abbiamo in linea con noi la dottoressa Maya El Hashem. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Dottoressa, rassicuriamo subito le mamme, è normale, è fisiologico, come dite voi, che nell'età pediatrica compaiano nuovi nei? Certo signora, i nei in genere possono essere congeniti, cioè comparire alla nascita, e in quel caso sono veramente pochi, è difficile che un bambino nasca con più di un neo congenito, è molto raro, ed è normale che invece durante la crescita fino all'età anche di 30 anni compaiono i nei mano a mano. Soprattutto in età più o meno per in età scolare e puberale c'è un aumento maggiore, quindi non bisogna spaventarsi o considerare un fatto anomalo la comparsa di nei nuovi in età pediatrica. Da quando è importante far controllare i nei dei nostri bambini, dei nostri figli? Quando sono proprio piccoli mi sembra che non sia necessario, ma lei sottolineava un'età particolare, l'adolescenza, qualcosa cambia, non solo il corpo cambia, e forse è arrivato il tempo anche di controllare i nei? Allora, io sono molto a favore della medicina preventiva, come dovremmo essere tutti, quindi dire che non è necessario controllare i nei in età pediatrica forse signora è un po' eccessivo, perché i melanomi, che sono i tumori maligni che derivano dai nei, esistono in età pediatrica pur eccezionalmente. Per cui bisogna fare i controlli ma senza ansia. Allora, quando farli controllare? Quando c'è un neo congenito è bene farlo controllare subito, quindi i nei con cui si nasce vanno controllati periodicamente durante l'età pediatrica e vanno anche asportati a scopo preventivo. E l'età di asportazione si valuta durante la visita medica, e comunque precoce sarebbe meglio. Per gli altri nei che compaiono mano a mano, se non c'è familiarità diretta, cioè dai genitori, per melanoma, e se i nei, secondo il pediatra, non hanno nulla di particolare, io direi di cominciare i controlli più o meno intorno ai 10 anni. Se però i genitori hanno dubbi, ansia, non è vietato andare dal dermatologo. No, assolutamente. Deve sentire prima il parere del pediatra, che dà un orientamento indicativo. Io la ringrazio, dottoressa Maya El Hashem, ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, la professoressa Katie Peris, ordinario direttore della clinica dermatologica all'Università dell'Aquila. Grazie anche a lei e alla nostra dottoressa, ho detto nostra, ma è un po' così. Vostra. Ecco, Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, di cui vi invito a visitare il sito, l'associazione di dermatologia ecologica. Per oggi è tutto, controllate i vostri nei e io vi aspetto come sempre domani qui dopo il GR delle 11. Essere e benessere.